Questo fai un basso, dopo hai il ritmo, questo fai un basso, dopo hai il ritmo basso, dopo hai questo fai un basso.